Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E nonostante la nebbia, siamo arrivati, siamo qua. Siamo noi, quelli di Blu Radio Sera. Una buona serata a tutti da parte di Flavio Bilato e di Maurizio Calzavara, che è nella fossa dei leoni, anche se di leone questa sera ce n'è uno. Basta uno, però ma importante. È importante. Un leone importante. Allora, in questa Blu Radio Sera dedicata al live, quindi diamo subito il benvenuto a Pier Matteo Carattoni. Eccolo qua. Buonasera Matteo. Buonasera, grazie. Allora, ha fatto buon viaggio? Sì, abbastanza. Da dove arrivi? È uno straniero, Flavio, uno straniero. Uno straniero, sì. Quindi arrivi direttamente dalla Repubblica di San Marino. Di San Marino, sì. Bene. Quindi... Sono un extracomunitario. Sì, certo. Sì, ho attraversato le barriere doganali. Sei passato per Croci di Monte Colombo, ho degli amici là, da quelle parti, però sono già in Italia. Vabbè, quindi trovato traffico. Ho trovato un po' di nebbia sul finale del percorso. Sì. Vabbè, ma questa sai che ce la teniamo sempre molto stretta, sì. È molto cara, ne cediamo sempre una parte molto importante ai nostri amici rodigini, ma poi anche a Padova ne teniamo molta, gelosamente custodita. Capisco. Benissimo, allora Pier Matteo Carattoni, tu sei qua questa sera perché ci stai presentando un album dai contorni davvero particolari che io e Maurizio abbiamo ascoltato più di 10 volte, ecco, bene, almeno per capire qualcosa di più di quella che è la tua musica, e in questa serata vorremmo farla conoscere anche agli abitué, agli ascoltatori di Blu Radio Veneto. Un disco che si intitola Pagine strappate, e la copertina rende chiara anche quella che è la... quello che è lo strappare queste pagine. Sì. Vediamo di capire innanzitutto chi è Pier Matteo e poi cerchiamo di capire qualcosa di Pagine strappate. Maurizio. Sì, Pier Matteo, musicista rock, fondamentalmente rock, anche un rock di un certo livello, cioè potente secondo me. Il disco è abbastanza potente, cosa dici Pier Matteo? Sì, io mi ritrovo in questa definizione, in questa connotazione, anche se in realtà... La potenza in questo disco rispetto a quello che ho fatto in passato è andata un po' scemando, nel senso che io ho un passato più duro dal punto di vista di rock. Che passato era, Pier Matteo? È un passato abbastanza legato al metal. Sì. Metallaro sono praticamente. Sì, è stata una lunga... Ma dai, non l'avrei mai detto. Sì, esattamente. Ascoltando il disco dico sì, no, c'è presente sicuramente un ambient rock, sì. Però l'hard rock lo vedo molto lontano. C'è una doppia anima, diciamo, in me, o perlomeno questo è quello che mi dicono. Io non dico questo perché io non sento la frattura, la differenza, diciamo, la differenza fra l'una e l'altra anima. Però ascoltando, diciamo, chi mi ha seguito, eccetera, devo dire che viene sempre individuata questa doppiezza, vogliamo chiamarla così. Sì. Pagine strappate, molto probabilmente, rispetto a quello che ho fatto finora, è la parentesi più soft, più equilibrata, se non altro, dal punto di vista delle sonorità, eccetera. Anche se poi è vero anche che non mancano dei momenti... Sì, appunto, ci sono dei momenti abbastanza, non dico duri, ma... concitati, nel senso buono del termine, e quindi qui il metal adesso può darsi che venga a capolino, sia pure da una parte. È possibile, sì. Cioè, ci sono dei brani, per esempio, con delle chitarre elettriche molto in vista. Certo. Prima abbiamo parlato di Cattivamente, che è forse quello più esplicativo, assieme a Canta Aurora, assieme Per altre vie all'asfalto, che invece è un brano magari più di taglio un po' anni 70, vogliamo dire. Elettroacustico, con una sonorità che è stata avvicinata anche a certi passaggi di Ivan Graziani, per certo, dire, no? Sì. Qualcuno ha parlato anche di Alberto Fortis per te. Sì, sono i riferimenti che facciamo più di consueto, anche perché io li ho un pochettino fomentati, no? Sì. Io per primo ho sempre citato negli ultimi tempi, insomma, da quando mi sono imbarcato in questa avventura, sì, ho citato Fortis, Graziani e Battisti, lo dico. Tra altre cose, Fortis più degli altri sta andando molto in quest'ultimo periodo, viene un po' ripreso in considerazione per dar merito a quello che è stato il grande cantautore Fortis. E tu sei presente con Fragole Infinite. Sì, Fragole Infinite è una cover che ho potuto registrare grazie al piazzamento, diciamo, ad una sorta di vittoria, comunque di premio, dentro un concorso di un'associazione di volontariato di Cesenatico, sì, che ha realizzato una compilation. E siccome nel momento in cui è stata prodotta io non avevo ancora fatto uscire il disco, si è deciso di realizzare una cover. E ho scelto Fragole Infinite perché era una canzone già in prova con la mia band, quindi già aveva rispecchiava le sonorità che poi sarebbero confluite pochi mesi dopo nel mio LP. È una canzone molto bella di Alberto Fortis. Anche molto forte. Sì. Decisamente è un testo di un certo livello, un certo peso. Bene, allora salutiamo anche gli ascoltatori che ci stanno ascoltando in streaming audio tramite il nostro sito internet www.bluradioveneto.it. E visto che la radio non è solamente da sentire, ma in questo caso anche da vedere, salutiamo anche gli amici che si stanno collegando sul nostro sito video, in questo caso www.direttarockwave.tk. Deve mettersi il cappello, Pier Matteo, manca il cappello. Dovremmo prevedere per posiziona col cappello. Dovremmo prevedere anche le cuffie che vengono indossate col cappello, perché cappello, sì. Molti artisti fanno uso un po' anche per così d'immagine per mascherare gli inestetismi, mascherare anche se è una battaglia persa. Poi avremo modo di vedere anche un'inquadratura di Maurizio Calzavara che naturalmente non nasconde gli inestetismi, assolutamente, da quando apriamo le webcam è un po' vittima di questo, e siamo fortunati che comunque la webcam non è presente dalla parte della regia. Non è giusto, esatto, però, in questo caso. Questo non è giusto, non è bipartisan, ma provvederemo anche questo. Prossimamente. Ci sarà una webcam anche qui. Va bene, allora stiamo parlando con Pier Matteo Carattoni, che è venuto a trovarci dalla Repubblica di San Marino, e stiamo innanzitutto parlando di questo Pagine Strappate, ma non vediamo l'ora di farvi ascoltare già qualche pezzo. Cosa abbiamo scelto per iniziare, Maurizio? Se abbiamo scelto un pezzo da disco, Pier Matteo, cosa tu hai scelto? Ti ricordi la traccia? Dovrebbe essere Canta Aurora. Canta Aurora, esatto. Giustissimo, è Canta Aurora. Allora l'ascoltiamo e poi torniamo a commentarla insieme qui dalle frequenze di Blu Radio Veneto. Blu Radio Veneto. Blu Radio Veneto. We'll be right back. fare, hai visto cominciare da capo a scriverti, a sorprenderti, a parlare. Radio Sera. Blu Radio Sera. E abbiamo ascoltato questo pezzo, si intitola Canta Aurora, a cantarlo Pier Matteo Carattoni. Il suo nuovo lavoro si intitola Pagine Strappate e noi siamo felicissimi di ospitarlo in studio all'interno della programmazione serale di Blu Radio Veneto, appunto Blu Radio Sera. Ancora buona serata a tutti da parte di Flavio Bilato e di Maurizio Calzavara. Esatto, sì. Ti aspettavo al banco, Maurizio. Ecco, solo che se non leggi il nome non te lo ricordi. Okay. Siamo arrivati a questi punti, no? Perché devi sapere, Pier Matteo, che ha una certa età, ha una certa cultura musicale e bisogna tenerlo sveglio. Ho capito. quindi vabbè, allora, Pier Matteo, come è nato questa Canta Aurora? Canta Aurora, innanzitutto vorrei dire che è un po' un manifesto, nel senso che la parola stessa, declinata nelle sue altre forme di aggettivo, è il termine che descrive un po' quello che io ritengo sia il mio percorso, no? Quindi tutte le volte che faccio riferimento a qualcosa di mio, come può essere una canzone, un disco o anche qualsiasi altra cosa, lo definisco cantauro orale. Ah, bello, sì. Sì. Okay. E quindi sì, è di per sé un manifesto, una bandiera. Io ho deciso insieme a voi di iniziare la trasmissione con questo brano proprio per questa ragione, anche se dentro l'economia del disco, o per meglio dire dentro la storia del disco, perché poi dopo ne parleremo, è comunque un concept, sì, che ha un suo sviluppo anche cronologico, eccetera, non è il primo capitolo, che è invece un brano che si intitola Romanza. Cantauro non è il primo capitolo, è come l'inizio del secondo tempo. L'inizio del secondo tempo che, guarda caso, è un pochettino più maturo, un pochettino più roccioso. È un pezzo che è abbastanza che attiro praticamente, sì, e soprattutto tra, ed è interessante scoprire questo mentre si sentiva il pezzo, tra l'arpeggio dell'acustica ci sono un sacco di effetti che accompagnano l'arpeggio dell'acustica. Sì, è la cosa bellissima della mia band, che quello che mi commuove, mi piace di più, è che il lavoro che è stato fatto insieme ai miei musicisti, no? Dopo li citiamo, sì, certo. Il lavoro che abbiamo fatto in sala prove è stato proprio esplicitamente un lavoro di sviluppo della parte di chitarra acustica. Cioè si è partiti dal presupposto che la canzone in forma chitarra e voce era già finita. Ma non solo da un punto di vista strutturale, proprio anche da un punto di vista di contenuti musicali. E quindi tutto il resto doveva essere un corollario, e questa parola la uso nel modo più nobile possibile. Non un corollario in senso di sminuire, ma proprio di esaltazione di quello che la chitarra acustica già da sola esprimeva, no? E quindi ascoltando il disco io ancora adesso, a distanza di anni da quando abbiamo iniziato i primi lavori in sala prova, eccetera, mi stupisco di alcune sfumature, no? Costruite in particolar modo dal mio bassista e dal mio chitarrista elettrico. Dei dialoghi continui tra gli strumenti musicali, eccetera, eccetera, che costruiscono una specie di sottotesto costante che si protrae per tutta la durata dell'album e sviluppa un suo discorso personale quasi al di là di quello che è il contenuto verbale, non di pagine strappate. E di questo sono grato a loro e al lavoro che abbiamo fatto insieme. Poi nel caso specifico di Cantaurora c'è anche un ottimo lavoro del mio produttore artistico, che è anche tastierista. E insieme abbiamo sviluppato le parti di tastiera, questo direttamente in studio, a differenza della restante parte del lavoro fatta in sala prove, eccetera. E quindi qui l'alchimia posso ritenerla positiva, insomma. Certo, assolutamente positiva. Decisamente. Allora noi andremo avanti fino alle 22:30 a parlare con Pier Matteo Carattoni per parlare della sua musica, del suo Pagine Strappate, ma qualche ascoltatore già potrebbe chiedere: ma come facciamo a conoscere di più e vedere anche qualcosa di più sostanzioso ancora? C'è un sito internet? Certo, sì, ci sono vari contatti internet. Il sito principale è piermatteocarattoni.com, semplicemente, dal quale poi è possibile accedere attraverso i link anche a MySpace, Facebook e YouTube. E questi quattro elementi esauriscono un po' quello che sulla rete c'è di generato, diciamo, da me, dalle mie situazioni discografiche, promozionali, certo, eccetera. Poi adesso in questo periodo ci sono anche fortunatamente moltissime news sul web, che sono l'opera pregevole, tra l'altro, dell'ufficio stampa Lunatic, eccetera. Comunque su YouTube ci sono video, sia videoclip, per il momento c'è Pagine Strappate, Babbo Natale Esiste, che spezzoni live, sia acustici che elettrici, eccetera. E sul sito è possibile avere più informazioni ancora sul progetto e anche, diciamo, acquisire il disco stesso in varie modalità. Bene, poi magari approfondiremo il tutto, riparleremo ancora del tuo sito, perché devo chiederti un'altra cosa, però io direi, Pier Matteo, che è arrivato il momento, e tu l'avevi capito, di imbracciare la chitarra. Pensate, a due chitarre in questa serata, e quindi le portate proprio perché ogni chitarra vuole la sua parte. Assolutamente sì. Allora cominciamo con la prima chitarra, per farci ascoltare cosa, Pier Matteo? Riagganciandomi al discorso di prima, direi adesso di partire invece dall'inizio, dal primo brano, dal primo capitolo, dalla prima pagina, e accennare Romanza. Stop. sto pensando che sia stata la carne a convincermi. La carne si fa cenere, ma il pensiero è come stracci di nuvole. È implacabile. Irragionevole. Mi guardi e mi spaventi, ti accenni e mi presenti la tentazione più improbabile. Tu bocca profumata, rugiada disperata, volutta impronunciata di setami. Musa delicata, troppo spesso imbrattata di sofistica. Donna angelica, nostalgica, sei l'immagine dell'essere onirica. In quale volto ti nasconderai? E quali altri colori ti dipingerai? Per ferirmi o per tenermi lontano da un'estetica che mi fa plastica. Carne di plastica. Ed eccoci qua, tornati in diretta. Abbiamo ascoltato un bel pezzo, solo chitarra e voce. La canzone si intitola Romanza, è tratto dal lavoro di Pier Matteo Carattoni che si intitola Pagine strappate. Allora, si diceva che Romanza è la prima parte di questo concept album. Sì, Matteo. E io ci pensavo venendo qui, perché tra l'altro dovete sapere che a me piace moltissimo guidare, no? Quindi queste gite, questi viaggi li prendo veramente come un'occasione di solitudine, riflessione. E pensavo a Romanza, perché a differenza del resto dei brani, che sono più recenti, anche come vissuto, quindi come esperienza che ne hanno generati, Romanza è più vecchio. Romanza io l'ho scritto che facevo la quinta superiore, quindi avevo 18 anni. E ancora... Quindi l'altro ieri, si può dire. No, non si può più dire. Si poteva dire fino a un po' di tempo fa. Lascia perdere, guarda. Non scopriamo gli altarini di qua dentro. È brutto, siamo brutto due, guarda, siamo in due. E no, pensavo alle esperienze proprio al vissuto, no, che ha generato questa canzone. E potrei definire la prima esperienza di amore mio personale moderno, volendo distinguere tutto quello che era precedente, un po' in qualche modo legato all'infanzia, alla primissima giovinezza, no? Romanza invece definisce una situazione un pochettino più matura, ma non per questo assolutamente completa, no? Al contrario, è una situazione altamente incompleta che si consuma solo nelle mura dell'interiorità. Io dico sempre che è un brano che parla d'amore in senso esclusivamente interiore, onirico, poetico, eccetera. In contrapposizione poi con quello che è lo sviluppo successivo di Pagine strappate, perché dal secondo brano in poi invece si proietta nella cosiddetta realtà, nel vissuto quotidiano, tutto questo è incarnato da H6+, il secondo brano, e tutto quello che consegue, sì. E musicalmente qua come l'hai eseguita, l'hai poi aggredita alla fine praticamente. Cioè gli ha dato un impulso notevolissimo. A me mi fa molto piacere che voi cogliate queste cose, perché non è facile, avere degli interlocutori per me di questo genere. Mi fa molto piacere e mi stimola delle risposte che hanno sempre molto a che fare con i miei riferimenti. Per esempio, io in questi giorni sto abusando di videoclip su YouTube di Ivan Graziani. Sì. E il quale aveva uno stile chitarristico che io amo e al quale mi rifaccio, ma anche se con una distanza enorme, no? di qualità e di talento. Mi piace tra l'altra cosa, quando iniziava Signore c'è stata una svista, sì, con quella schitarrata eccezionale. Qual era la canzone? Il chitarrista. Chitarrista, ah, il chitarrista, sì, proprio, sì, era proprio quella, giusto? Anche la tagliatesta Gallo era molto famosa. Sì. Quello è un pezzo, cioè aveva la... Innanzitutto dobbiamo dire una cosa, Flavio, secondo molti e anche secondo me, ingloriosamente, Ivan era forse il più bravo chitarrista italiano, in assoluto. Eh sì, anche lui era straniero, no? No, italiano. No, no, è delle Marche. Ah no, sì, perché salutava Lugano, adesso confondevo. Lugano, lui risiedeva nelle Marche, però era abruzzese. Sì. In ogni caso, quindi era assolutamente italiano, ma questo non vuol dire decisamente nulla, era un grandissimo Grandissimo. Questo solo per dire che a me piace molto chitarristicamente lasciarmi trasportare proprio dall'energia dei brani e quindi sottolineare in modo esagerato le dinamiche, quindi la differenza fra l'intimismo e l'esplosione, l'esplosività, no? È la cosa che preferisco, che mi fa sentire più attaccato proprio carnalmente alla chitarra, no? Il discorso del corollario che tu hai fatto, tu parlavi del corollario, a me è venuto in mente la coda, ma in coda nel senso positivo, cioè molti pezzi tuoi, abbiamo sentito prima, hanno questa caratteristica, c'è una piccola coda, non è una coda per concludere il pezzo, è per sviluppare determinate altre cose. Sì, è vero, è vero. Questo succede anche in Canta Aurora. Esattamente. Lo sviluppo della parte musicale e il suo rapporto con il testo è una cosa molto affascinante e misteriosa, che non ha tante regole, ma caso per caso ci sorprende, no? La cosa di cui io posso ritenermi veramente soddisfatto di Pagine Strappate, al di là di tutto, è la naturalezza di queste creazioni. In Pagine Strappate ho avuto la fortuna di non dover mai forzare. Vuoi perché è stato composto durante un periodo di tempo lungo, quindi la selezione è stata relativamente facile, il materiale era tanto e la distinzione fra quello più valido e quello meno è stata molto naturale. Vuoi perché c'è effettivamente del vissuto importante, quindi una sincerità espressiva che non è un merito, anzi io devo ringraziare, no? Aver vissuto questa esperienza creativa, e tra l'altro spero che si ripeta, perché non ci sta scritto da nessuna parte, purtroppo, non è un esercizio, al massimo si può cercare di agevolarla, ma non si può di certo pretendere, no? E quindi queste soluzioni musicali, eccetera, sono una cosa molto molto naturale, che non ha uno studio dietro. Tant'è vero che poi alcune persone hanno un po' di difficoltà ad approcciarsi ad alcune parti dell'album o nel suo intero, perché non ha una scuola precisa alle spalle. Hai detto una cosa giusta, vero Flavio? Non ha una scuola precisa, tanti input, ma la precisione sei te e basta, c'è poco da fare. Credo che sia così, sì. Bene, diciamo la parte centrale, la parte che ha preso e fatto proprio e trasformato con l'ausilio del proprio cervello, ma anche soprattutto del proprio cuore, perché la musica si scrive con il cuore. Mi ha colpito tra i vari titoli delle canzoni di Pier Matteo Carattoni una canzone che adesso andremo ad ascoltarci subito da disco e poi torneremo a commentare insieme, però tanto per dire, si intitola Samba dei ricordi d'amore. Dei ricorsi, scusami. Sì, stavo dei ricorsi, si legge anche bene. Dei ricorsi d'amore. È un titolo assolutamente fantastico, Pier Matteo. Ti ringrazio. È nato in conseguenza del fatto che la canzone aveva una sonorità abbastanza latineggiante, da cui samba. I ricorsi d'amore sono un po' il tema del testo, cioè una serie di rimpianti sentimentali più o meno espliciti, più o meno dichiarati, che generano uno stato psicologico non positivo, vogliamo dire, no? Sì. Allora apriamo questa parentesi un po' latineggiante con questa canzone e poi torniamo a parlarne con Pier Matteo Carattoni, che è qui con noi. Ancora lo ringraziamo di essere nei nostri studi qui a Blu Radio Sera. Grazie Matteo. Grazie a voi. Radio Veneto. musei che ho visitato, città che non ho saputo amare, poche labbra da baciare, ma così divento matto perché tu che sei tra due colori, nei dipinti dei miei umori, come potevi mancare se davvero saresti dovuta, come sale sulla ferita. Io incidevo cerchi un tempo che invecchiava in un momento, eri le fronde degli alberi mosse dal vento, una storia d'amore dove io ero di troppo idealizzato, eri che mancasse un movente ogni volta che evitavo di partirmene al galoppo. E dov'ero io, amore mio, quando giro dopo giro mancavo al fiato rotto del tuo respiro, e sbagliavi direzione e bruciavi la passione dentro braccia prepotenti, meschine ed arroganti, nelle notti quel che sia, per buttarti un po' più via, era semplice follia che non fossi ancora mia. Radio Sera. Blu Radio Sera. E ogni volta che si sente la samba c'è Maurizio che muove sempre in continuazione la testina, eh? Sembra uno di quei cagnolini, Maurizio, tu mi capisci bene, lo so, quelli lo che, so, che erano perlomeno dietro le macchine qualche tempo fa, no? Che volta, muovevano sì. In continuazione la testa, sempre sì, appoggiati, fantastico. Vabbè, abbiamo ascoltato questa samba dei ricorsi d'amore con Pier Matteo Carattoni. Abbiamo già parlato di questa samba e di questo perché, ma come mai aver pescato proprio dalla musica, diciamo, latinoamericana l'ispirazione? Ah, questo non te lo so dire, guarda, proprio sinceramente. Questa è proprio una di quelle situazioni, e nel mio repertorio ne ho alcune altre inedite attualmente che non fanno parte del progetto, dove non saprei risalire, diciamo, all'origine, al fattore scatenante, eccetera. Anche proprio a livello di sonorità, a me non appartengono per niente queste situazioni qua, che invece in samba hanno trovato un po' il loro sbocco. Adesso non vorrei scomodare discorsi troppo spirituali, però c'è effettivamente una non parentela fra me e alcune cose che faccio artisticamente. Fra il mio io più superficiale, diciamo, che sono forse un po' proprio il sale di questa attività, cioè quando si genera qualcosa che non ha una spiegazione così proprio razionale e immediata, è evidente che si è innescato un processo un pochettino più sotterraneo, che è la mia soddisfazione più grande in assoluto in questo caso, in questo campo. Quindi possiamo dire che questo disco potrebbe essere anche abbastanza libero di tante soluzioni, non praticamente collegato a determinati schemi. Assolutamente no. Sì, no. Qui non ci sono proprio gli schemi, anzi c'è una voglia costante di schemi, sì, esattamente, sì. Non dovrebbe esserci. Saluto un momento il nostro direttore artistico Flavio. Sì, non dobbiamo dimenticarci, salutiamo Alberto Prisco che ci ascolta sempre immancabilmente e che ringraziamo perché senza di lui... No, Pier Matteo non sarebbe qua stasera, lo ringrazio personalmente. E ciao Alberto. E salutiamo anche la Cristina, che è la nostra affezionata ascoltatrice, che ti segue sempre gli speciali di Blu Radio Sera con Flavio. Ciao Cristina. Bene, allora, dove siamo rimasti? Ah sì, volevo farti una domanda riguardo sempre al tuo sito internet. Sì. Tu proponi tre situazioni nei tuoi concerti. Sì. Allora proponi la tua situazione prima acustica, completamente acustica, formata da una sola chitarra. Sì. Per poi andare verso due chitarre e un intero accompagnamento. Allora, la storia di questa distinzione è nata da una modularità della mia band, ovvero quando avevo soltanto la band uscivo in quattro, cioè completi basso, batteria, due chitarre, oppure in tre, cioè senza batteria, oppure in due, cioè chitarra acustica e chitarra elettrica, oppure da solo. Da quest'anno, ormai da più di un anno a questa parte, ho deciso di svilupparla di più questa risorsa, anche cambiando squadra, ovvero la band esce come band, il trio esce come trio formato da altre persone, il duo come duo, eccetera. Il trio, lo dico qui, è scoppiato, e infatti su internet non c'è neanche più. C'era un trio che mi piaceva anche, ma abbiamo avuto dei problemi, delle incomprensioni, e non c'è più il trio. Ecco. Quindi questa è un'opzione che non c'è più. È un'opzione che non c'è più. Fa parte un po' del mondo musicale avere delle incomprensioni oppure seguire poi anche delle strade completamente diverse. Però, come insegnano gli artisti degli anni 70, fra 40 anni ti ritrovi. Vediamo. Non lo so, bisogna vedere. Sì. Comunque sì. La chitarra e voce non sto a spiegarla, è quello che sto facendo questa sera qui. Il duo invece è una situazione completamente nuova, che tra l'altro deve esordire, e la data di esordio è fissata per il 25 febbraio. Quindi fra poco. Sì, è una situazione composta da dal sottoscritto con Dorian Pazzini. Pazzini è un chitarrista sammarinese a sua volta, con il quale ci siamo trovati molto bene quest'estate per altre vie, per altri progetti, eccetera, e gli ho chiesto di partecipare con me a questo progetto. Ha accettato con un entusiasmo che mi rende veramente felice, che queste sono quelle soddisfazioni che si incontrano nel percorso. E poi la band invece è la situazione con cui abbiamo preprodotto il disco, la situazione clou di Pagine Strappate. Posso dire due parole sui musicisti? Certamente. Scusami, le due chitarre sono acustiche o elettriche? Nella band una acustica. No, elettrica. Parlavo nel duo. Nel duo due acustiche. Due acustiche, okay. Esatto. Ed è questa la situazione nuova, perché fino a un po' di tempo fa con l'altro ragazzo che fa parte invece della band uscivamo chitarra acustica e elettrica. Quindi nella band ci sono sia acustiche sia elettriche. Sì. Nella band io suono l'acustica e abbiamo alla chitarra elettrica un ragazzo il cui nome d'arte è K-Biro. Basta che piaccia a lui, insomma. No, scherzo. Con cui c'è una lunghissima storia di collaborazione che precede questo progetto, ma affonda le radici nel nostro vecchio gruppo. Al basso c'è Danilo Bucci, che è un personaggio veramente di livello. Sì, ha suonato parecchia gente. È un grande. Un grande, sì. Ha suonato con parecchia gente. Adesso non stiamo a citare perché sembra sempre dopo di voler fare. Certo, sì. È un bravo musicista. Un grande musicista. E poi alla batteria adesso abbiamo Marco Casali, un altro coetaneo. E dicendo coetaneo mi tolgo qualche anno, perché in realtà è un po' più piccolo di me. Che è subentrato dopo che il batterista originale con cui avevamo fatto le preproduzioni di Pagine Strappate ha scelto, diciamo, altri percorsi. Quindi al momento questo quartetto è la band cantauro orale, tornando alla definizione di prima. I progetti in cantiere per la band, c'è la realizzazione di un DVD di un concerto integrale. Però bene. Interessante. Sì. Prevista, se tutto fila liscio, per fine maggio la registrazione. Poi dopo la pubblicazione al momento non sono in grado di dirlo. sempre una produzione del mio, della mia etichetta, che saluto e ringrazio, la PMS Studio, nella persona in particolare di Raffaele Montanari, che è un altro grande personaggio di un Ravennate, che mi ha prodotto e mi ha in qualche modo dato la possibilità di esordire discograficamente. Quindi il mio ringraziamento è ben lungi dal potersi estinguere qui. Allora ricordiamo anche il nostro indirizzo per gli SMS: 346 23 20 033, ripeto 346 23 20 033, se volete scrivere qualche messaggino a Pier Matteo Carattoni. Ricordiamo anche gli altri nostri indirizzi: bluradioveneto.it, da dove potete collegarvi con lo streaming audio, e ancora il nostro sito video, in questo caso diretta rockwave.tk. E ne approfitto per salutare anche quelli che ci stanno vedendo, che ci sono, ecco, confermato, ci sono. Bene, allora Pier Matteo, visto che ci sono le chitarre lì da sole, cosa facciamo? Facciamo? Un altro bel pezzo? Sì. Abbiamo cambiato chitarra, o è la stessa? No, è la stessa di prima. È la stessa di prima, sì. Non ho imbracciato la stessa. Ah, potrei accennare una canzone che si intitola Babbo Natale Esiste. Bene. Di cui è presente anche un videoclip su YouTube. È una canzone che metaforicamente descrive l'incontro fra la situazione di romanza, ovvero l'aspetto più mistico, interiore, eccetera, e la situazione di H6+, che ancora non abbiamo ascoltato, ma che comunque è un brano che invece tratta delle stesse tematiche di amore, sentimento, però in termini proprio concreti, quotidiani, eccetera. Babbo Natale Esiste un po' come se fosse l'incontro di questi due mondi. È una notte magica, passa su di me, fuori è freddo e nevica, e la speranza c'è di riempire i baci tuoi, la parola noi, ma distratta aspetti lui, non sono geloso di lui. Come potrei, dal momento che, amore mio, lo aspetto pure io. Può sembrarti strano, ma lo sai, quei sogni non si sa mai. A volte piangi perché sfumano, ma quando non ci stai ti accorgi che ritornano. E se non credi che sia così, perché sei qui? C'è la neve, cosa vuoi di più? Le comete stanno a testa in giù, nasce sotto un cielo blu quel povero Cristo di Gesù. Sei preoccupata pure tu. Spero che le renne non gli siano andate in panne, non si vorrà scordar di noi. Se vuoi andare a letto vai, questa notte credo non dormirò, perché con molta calma lo aspetterò. Per riposare di tempo ce ne avrò, dalla finestra lo riconoscerò, con del buon vino lo accoglierò. Mezzanotte ancora non si vede niente per la strada, festa, luci e tanta gente di sicuro. Tu mi credi deficiente, cedi al sonno, chiudi gli occhi lentamente. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Un'altra bella canzone, questa ascoltata con Pier Matteo Carattoni, un'altra bella canzone dal suo ultimo lavoro Pagine Strappate, e vediamo anche una bella copertina di questo disco, che indica proprio una volontà di strappare certe situazioni che si sono venute a creare, ciascuna con un proprio nome. Tra le altre cose ben visibile anche una carne di plastica, oppure come stracci di nuvole. Sì. Cosa stai facendo in quel momento, Pier Matteo? Perché sei tu poi alla fine. Sì. C'è qualcuno che ti trattiene in un certo senso. Ah, quella copertina è uno sviluppo concettuale di tutta la situazione che c'è dietro Pagine Strappate. Mm. E che non è breve da raccontare. Però la cosa evidente è che la mia maglietta può rappresentare... può rappresentare una sovrastruttura, no? Che in questo caso è un pensiero ingombrante. Le canzoni stesse, perché quelle parole scritte sopra sono tratte dai testi delle canzoni. Comunque una situazione che mi appartiene, mi riveste, quindi non si capisce fino a che punto sia... esattamente me stesso, o fino a che punto sia un qualcosa di più, di successivo, di posteriore. E poi c'è questa situazione un pochettino violenta di contrasto di forze, perché c'è la mia mano che sta tentando di strapparsi di dosso questo vestito, e c'è una mano femminile che tenta di impedirmelo. Allora, questa immagine, nonostante incarni bene tutto il processo che c'è dietro Pagine Strappate, ha un'attinenza particolare con Cattivamente. Perché Cattivamente è il brano che dentro la logica di Pagine incarna proprio il momento negativo per eccellenza. La storia d'amore prima nasce come sogno, poi arriva nella realtà, poi fiorisce come incontro fra il dentro e il fuori, l'anima, il corpo, eccetera eccetera, poi inizia per qualche ragione a decadere. C'è Pagine Strappate canzone, proprio brano, il momento in cui questa decadenza si fa esplicita, si dipinge di coloriture depressive, tristi, come dire, più che malinconiche, lugubri forse in un certo senso, livide, ecco. Cattivamente invece è l'esplosione negativa, il momento in cui la rabbia diventa cattiveria, e quindi il momento in cui l'amore diventa odio, è una caduta angelica, no? Come delle volte si definisce. Quindi qualcosa di estremamente violento. E io ho sempre avuto l'immagine sul finale di Cattivamente, che tra l'altro è molto pesante, ho sempre avuto l'immagine della mia persona, della mia figura, che si strappa di dosso i vestiti in una situazione peraltro molto fredda, invernale, quasi come volersi allontanare da se stessi, laddove quel se stesso è stato un pochettino avvelenato da una serie di circostanze negative. Tant'è vero che poi il brano che c'è dopo, in scaletta, canta Aurora, e che definisce proprio la rinascita dopo lo strappamento della pagina, del vestito, della seconda pelle. Sì, Cattivamente è pezzo numero 6, mi pare, proprio alla metà stessa della scaletta. Vero. È significativa che è alla metà della scaletta. Sì, sì. Vuole proprio arrivare all'apice e poi si ritorna. È vero, non è un caso. Non è un caso. No. Una cosa volevo chiederti, come nasce un pezzo tuo e come si sviluppa poi con la band? Un pezzo mio solitamente nasce prima la musica con un processo di ricerca sulla chitarra, quindi sonorità armoniche piuttosto che piccole melodie che si avvinghiano, si trovano insomma nel mio suonare, nel mio rifletter musicale, e arrivano a un senso compiuto anche senza avere il testo. Poi dopo acquisiscono il testo, quando l'operazione riesce bene è come se la musica dettasse un po' le regole al testo, lo dettasse proprio, una cosa un po' angelica. Questo è atipico, Flavio, sì. Perché la musica che detta le regole al testo è una cosa atipica. Sì, sì, sì, molto atipica, perché molte volte si crea prima il testo e poi si amplifica la sonorità, invece sì. In questo caso qua hai provato un'esperienza contraria che è pur sempre molto... molto complessa da portare avanti. Io la vedo così, io penso che la scrittura, come tutte le altre forme espressive, sia qualcosa che ha dei livelli di lettura e di esistenza diversi, più superficiali e più profondi. E per superficiale e profondi intendo da un punto di vista psicologico, non di brillantezza di senso, eccetera. Quindi una scrittura, diciamo, dettata dalla musica, come in questo caso, è di per sé più profonda, ma profonda proprio in senso fisico, più interrata sotto la psiche, più vicina all'inconscio, diciamo. E quindi se la musica, che a mio avviso è di per sé più vicina all'inconscio rispetto all'aspetto verbale, se gestisce in prima persona, esagerando l'esempio, esagerando il concetto, l'aspetto verbale, è possibile, è auspicabile che anche esso, cioè l'aspetto verbale, sia più intenso e più vicino all'inconscio. Mi sono un po' perso con la domanda. Sì, ah, poi con la band, sì. E con la band, sì. Questo cioè, secondo me, quindi con la band puoi esplorare, allargare sempre di più l'orizzonte da quel canovaccio sonoro che è. Esatto. E il senso è questo: attraverso il filtro dell'interpretazione personale dei musicisti, di cui a questo punto mi fido molto ciecamente, si tende ad espandere quello che c'è già in nuce, credo si dica, nel canovaccio, giustamente nel copione grezzo, nella bozza di chitarra acustica e voce. La bozza nuova in questo caso. La bozza nuova. Vabbè, perdonami la battuta. Ci stava. Vabbè, ci stava. Sì. Vabbè, allora noi continuiamo con l'ascolto di un pezzo dal tuo ultimo lavoro, Pier Matteo. Abbiamo scelto H6+, mm-hmm. un titolo del tutto chimico, oserei dire, o alchemico. No, poi, un titolo un po' da SMS, perché vuol dire semplicemente ora sei più. Ah, bene. Sì. Solo un'abbreviazione. Un'abbreviazione, sì. Non eravamo preparati in questo, però vabbè, ogni tanto gli SMS li mandiamo anche noi. Fortuna che c'è il T9 che ci assiste, così ci fa allungare, diciamo, i testi. E vabbè, allora ci ascoltiamo questo H6+, naturalmente Pier Matteo sta ancora con noi fino alle 22:30, perché abbiamo ancora molte cose da capire di questo lavoro. Blu Radio Sera. Soffia sui visi caldi di due amanti appesi al sole. La mia mano nella tua mano, tu che canti sulla radio piano. L'autostrada che scodinzola poco più là del finestrino. La bocca si apre al tiepido di un autogrill. Ti fa se accosto che facciamo un po' di colazione qui. Uno sbadiglio, un bacio, un assonnato sì. Stirati tutta che mi fai morire quando fai così. Due passi giù al mercato, ma davvero l'hai già ascoltato. L'LP che ti ho prestato e spero che ti sia piaciuto. E penso che solo due mesi fa immaginare questa cosa qua era difficile, come lo è adesso credere che tu sia già quello che non riesco mica più a mascherare. Io la trattengo ma ogni tanto salta fuori la parola amore. È inevitabile, devi credere, non lo dico per scherzare. Anche se a volte ho un po' paura tu ti possa spaventare. Sei sicura, io ti meriti. Schiaffo che vuol dire sì. Più bella dell'idea, più bella che ho di te. Sì, tu sei. Più grande dell'idea, più grande su di te. Più dolce del più dolce gesto che mi inventerò. Per i tuoi seni bianchi dove mi addormenterò. Più caldo del più caldo fiato che respirerò. Dalla tua bocca di cui sono certo non mi stancherò. Scopro lentamente e abituo la mia mente a tutta una serie di dettagli che prima non tenevo presente. Non riesco neanche a ricordare come eravamo prima di cadere in quella trappola di labbra calde contro un televisore. Un bacio all'improvviso e non ti lascio più. Mi porti così tanto in alto che ho paura di guardare giù. Non è difficile, devi credere, mi viene molto naturale. Come straiarsi al sole, come piangere o come fare l'amore. Beh, di vite ne ho vissute, sì. amori ne hai avuti, sì, ma adesso sento che sei proprio qui. Sì, tu sei più grande dell'idea, più grande su di te, più dolce del più dolce gesto che mi inventerò per i tuoi seni bianchi dove mi addormenterò, più caldo del più caldo fiato che respirerò dalla tua bocca di cui sono certo non mi stancherò. È quasi notte, vento di stupore soffia sui visi caldi di due vite appese a un cuore. La mia mano nella tua mano, una bocca che scivola pieno, un mondo intero si ti vincola poco più nel finestrino. Lontano un'altra volta, non ci resto più. In questa confusione quel che ho sei tu. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua, ancora buona serata a tutti. Questa è Blu Radio Veneto, siete all'interno della programmazione serale di Blu Radio Sera fino alle 22:30. Maurizio Calzavara, Flavio Bilato e l'ospite di questa sera, Pier Matteo Carattoni. Stiamo ascoltando insieme le canzoni dal suo nuovo lavoro che si intitola Pagine Strappate. Stiamo ascoltando sia qualcosa dal disco, sia naturalmente qualcosa prodotto direttamente dalle sue chitarre qui in studio, oltre che dalla sua voce. Ancora buona serata a Pier Matteo, che sta osservando le chitarre. loro stanno bene. Loro stanno bene. Stanno sì. Bene. Sono le tue compagne di viaggio. Sono belle, lignee. Sì. Sì, e hanno anche un bel suono. Grazie. Un bel finale, un finale, dicevamo mentre il microfono era spento, un pezzo divertente che dove tu corri, musicalmente sì. Corri, e il finale con l'acustica, l'acustica leggerissimamente gli ultimi secondi, ma l'elettrica chiude alla grande. Sì, c'è un bel assolino. E chi la fa da solo? Il ragazzo di cui parlavo prima, sì. K-Biro si chiama. Esattamente. K-Biro. Il suo pseudonimo, sì, praticamente. Sì. Lo salutiamo, perché salutiamo. È proprio un bel nome, non poteva scegliere di più. Meglio. Sì. Lo salutiamo. Sì. C'è un bel finale, un bel giro dell'elettrica. L'elettrica fa bene in certi momenti. Da sostiene, da un certo input. Sì, sì. Impulso notevole, ti fa muovere. Lui ha fatto un lavoro, secondo me, quasi di costruzione di canzone nella canzone. Ah, ho capito. Questo sempre, proprio come suo approccio, lui ha lavorato non in senso pop, dove solitamente gli strumenti armonici come la chitarra elettrica, la tastiera, cercano di vestire l'ossatura del brano, ritmica, di colorarla, di esaltarla. Lui ha lavorato in modo più da compositore, ha proprio fatto delle parti che sono dei veri e propri brani nel brano, no? E questo ha creato un sound particolare. E quindi io sono molto contento di questa collaborazione. Bene, Maurizio, noi come sempre a questo punto della trasmissione... Lui non lo sa ancora, non lo sa ancora. Tra poco lo scoprirà anche lui. I nostri ascoltatori ormai lo sanno, anzi, fa parte un po' delle domande storiche. Devo cucinare, devo sì, fare certo, qualcosa. Sì, certo, sì. Adesso ti chiamiamo qui la Clerici. Poi so fare. Bene, quindi qualche specialità del San Marinese ce la dirai. Non so, ad esempio, un piatto di San Marino qual è? Boh. Cioè abbiamo la torta di San Marino. Ah bene. Non è un piatto, è un prodotto, un marchio registrato. Penso di aver fatto anche pubblicità, non volendo. Vabbè, no, niente di tutto questo. Noi parliamo sempre di musica. Però in questo caso parliamo della musica degli altri. Ecco. E quindi facciamo sempre quel panorama tipo isola deserta, valigia e dover scegliere quali 5 dischi da portarsi. So, non ne bastano 5 volte. Oltre ai tuoi, naturalmente. Beh, poi. Ma devo rispondere? Direi di sì. Terribile. Ah, dunque, dischi. Dischi io intendo proprio LP, no? Cioè... LP, CD, LP. Doppi CD, no, live. No, comunque, come dire, non valgono le raccolte. LP, allora, Anima Latina di Battisti. Ah, Battisti, Battisti un po' particolare hai scelto, sì. Anima Latina, come sì. Mai? Due mondi. Sì. Perché, per quello, perché è particolare, perché non è né il periodo Panella, né il periodo d'oro mogol, tipicamente mogol, è qualcosa di unico, come forse anche è già altro disco. Che è l'unico disco con la moglie. L'unico con la moglie. Esattamente. Anima Latina, io ci sono molto legato e lo posso preferire in questa selezione isolana, lo posso preferire agli altri che preferisco, che possono essere la batteria, il contrabbasso, eccetera, piuttosto che Hegel. Che non so perché, ma mi fa morire. E poi io devo portare un disco dei Virgin Steel, che sono una band heavy metal, un disco che si intitola The House of Atreus Act 1. Chissà se ce l'ha il nostro collaboratore Renato Ferro, che arriva fra poco. Arriva alle 22:30, c'è un repertorio di musica hard rock e heavy metal che fa spavento. Poi glielo chiediamo. Sicuramente avrà anche questi, magari non nella scaletta di questa sera, però gli abbiamo dato un'ottima idea. Sono recenti questi come gruppi? Sì, sì, non è un gruppo in attività, però il disco c'ha qualche anno, avrà 7-8 anni. Ah, quindi no. Torniamo sull'argomento di prima, dove dicevi all'inizio di trasmissione, forse voi non ci crederete, ma io sono di spirito hard rock. Sì. Anche più di hard rock, anche proprio heavy metal, sì. Siamo arrivati a 2, è durissimo. Poi cosa devo portare? Un disco di Fortis? Quello sì, ci vuole un disco di Fortis. Allora, per non essere banale, cito un disco qui che cantavo oggi così sotto la doccia, che si intitola Dentro il Giardino, che è un disco come i romanzi di formazione, no? Cioè il classico percorso di crescita, cioè la voce narrante di Fortis che dà proprio anche consigli, ci sono titoli di canzoni che sono proprio anche esortazioni, tipo vivrai, imparerai, eccetera. Canzoni stupende come Dentro il Giardino, Aprile. Sì, Aprile è molto bella, sì. Aprile molto bello. E siamo a 3. Sì. È durissimo, Siamo in un'isola, non siamo in una, non stiamo facendo una scalata. Durissimo. Vabbè, dai. Poi bisogna portare Ivan Graziani. Quello sì. Ah, allora a questo punto, per essere sempre controcorrente, non cito i classici, ma cito dei dischi particolari. L'ultimo di Ivan Graziani, Male Lingue. Bellissimo, dove ci sono canzoni che sento molto molto vicine in questo periodo in cui inizio a sentirmi anziano. E allora lì Ivan Graziani si aveva proprio fatto un elogio dei giovani, c'era Voglio un mondo minorenne, piuttosto che Male Lingue stesse, dove la protagonista è una quindicenne, piuttosto che quella dell'orsetto Sugipu, dove la protagonista è una tredicenne che scappa di casa. E siamo a 4. Il quinto, non lo so, banalmente un classico. Ah sì, ecco. Ma di lingua. Che ne so, un classicone, un White Album dei Beatles. Ah, va benissimo, quello va sempre bene. Tanto per pararsi un po' le spalle, non per coprirsi un po' le spalle. Siamo arrivati faticosamente a 5, credo. Sì, sì, esattamente. Sì. Bene, okay. La pensavamo più difficile, sinceramente, eravamo qua. Però, vabbè, visto che non era stato preparato prima, effettivamente diamo un input, solitamente Maurizio, stasera siamo stati un po' cattivi. Un po' cattivi, ma è stato molto bene. Ma Pier Matteo è stato molto bravo. Grazie. Dire. Così bravo che adesso ci dice se ci farà ascoltare un'altra canzone con la sua chitarra. Sì. Chitarra numero... No, non l'ho mai usata. Quell'altra non l'hai mai usata. Proviamo a sentire l'altra. Vabbè, stiamo prendendo dal Trespolo la seconda chitarra. Eccola qua. vi faccio sentire quello che formalmente è il singolo attualmente in programmazione ed è proprio Pagine Strappate. Le notti passate lontano da te, costante oramai. Domani mattina, col freddo che c'è, mi rimpiangerai. Dentro a questo cielo ruba ancora come tu sai. Mi accontento del veleno, farò il bravo, vedrai. Cala grave il tuo sipario, non mi coltivi più. Cara mia, chi ha perso il senno sei tu. Quando stringevo il tuo corpo di pane, tremavi oppure no? No. Ti baciavo le guance con labbra di padre, cosa che ti stordiva un po'. Quell'auto che partiva scavava solchi tra noi, stupidamente sfidai. L'amore si illudeva, piangeva un sangue che mai più ti dedicherei. Trovati altri cieli in cui fare la stella se puoi, e se vuoi illuderti, beh fallo fino in fondo come tu sai. Cercheremo nuove briciole di baci per noi, ma il mio orgoglio non lo accetterà mai. Che io sia tuo non lo permetterà mai. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua ancora per commentare insieme queste canzoni che escono dal cuore, dalla voce di Pier Matteo Carattoni, che abbiamo ospite nei nostri studi. Pagine Strappate, allora. Eh sì, Pier Matteo. Eh sì, Pagine Strappate, questa è proprio la canzone omonima. La title track. La title track. No, si diceva così. È quello che si può definire il momento depressivo per eccellenza. Questa cosa detta al pubblico sbagliato fa ridere, detta al pubblico giusto fa pensare ad una situazione che molti di noi hanno vissuto, alcuni magari stanno vivendo, una situazione psicologicamente particolare e non positiva, no? Nella quale diveniamo in qualche modo incapaci di essere felici, no? Potrebbe essere una definizione sintetica. E Pagine Strappate vorrebbe cantare questa situazione, che non perché sia negativa non va appunto cantata o dichiarata. Una volta una mia insegnante di università ha detto: l'infelicità esiste, quindi che negarlo. E, all'interno invece del disegno più ampio dell'album, Pagine Strappate si può considerare il momento metaforicamente di perdita di coscienza, di perdita di memoria. Qui è d'obbligo la citazione per quel film con Jim Carrey, che in italiano è stato tradotto Se mi lasci ti cancello. Un bellissimo film dove il dolore psicologico viene identificato con la fine della storia d'amore, in particolare con i ricordi di questa storia d'amore, che fanno stare male e fanno provare sofferenza. Quindi il l'escamotage, l'obiettivo, la macchinazione diabolica è quella di cancellare i ricordi, ma la poesia del film è il modo in cui dentro l'inconscio questi ricordi riescono a emergere lo stesso, sotto altre forme, con altre vesti. Pagine strappate è un po' questo, è un po' la dimenticanza di sé, la perdita di senso che viene evocata dal dolore della fine di una storia d'amore. Però questa storia d'amore potrebbe essere anche un pretesto metaforico per parlare di qualcosa di più o comunque di diverso. Ci sono due chiavi di lettura. Quindi non nichilista assolutamente, una cosa che da zero si può assolutamente ripartire. Il nichilismo c'è come passaggio, non è l'esito, non è il messaggio finale. Però come passaggio c'è, come fra pagine strappate cattivamente c'è più di nichilismo, c'è anche qualcosa di ancora più perverso, di più non solo automasochista ma addirittura di un po' sadico, perché il finale di Cattivamente, non scordiamoci che dice alla ragazza un tempo amata tu ti maledirai e non sarà abbastanza, che credo che sia piuttosto cattivo non lanciare una maledizione ma ipotizzare che la persona se la lanci da sola. Capito, c'è sì. Una bella perversione in questo concetto, che poi viene in qualche modo invece resettato da Canta Aurora, che dice allora sarà meglio fare basta con questi pensieri negativi, oscuri, eccetera, sarà meglio ricominciare da quella luce che c'era in romanzo e che lungo questo iter si è andata smarrendo. E pagine strappate, dal punto di vista musicale, possiamo definire in qualche momento una melodia strappata? In che senso? Cioè, qualche volta tirata. La melodia esiste, c'è la melodia nei tuoi pezzi, però qualche volta è tirata. Non dico tirata, forse nascosta, volutamente. Ah. Non l'avevo mai visto. Io l'ho sentito così. Qui. La melodia proprio intesa come fatto musicale. Sì, come fatto musicale. Cioè, la melodia esiste. Sì. Però qualche volta volutamente la melodia è lasciata da parte, o meglio tirata per i capelli in alcuni momenti. Capisco il discorso. Forse io non sono proprio un grandissimo melodista. Forse la costruzione dei miei brani, come dicevo prima, parte più da una ricerca, una visceralità chitarristica, e quindi delle sonorità di accordi già sviluppati, non viceversa. Io frequento anche altri, chiamiamoli colleghi, persone che mi dicono io faccio la melodia, la registro sul registratorino, poi in un secondo momento io, chi per me, ci costruiamo l'armonia. Però io la ritengo un processo inconcepibile, questo. Ho capito. Quindi forse questo tuo sentore nasce proprio dal fatto che per me forse la melodia non è la cosa principale. Questo, volevo proprio dire questo. Sì. Esattamente. Allora Benissimo, trovati. Visto che abbiamo ancora 15 minuti di tempo, vediamo di gestirli in maniera da ascoltare ancora qualche pezzo dall'album Pagine Strappate con Pier Matteo Carattoni, e direi di dare spazio al pezzo che si intitola L'asfalto. Ah, benissimo, sì. Bene. Ok, allora ce lo ascoltiamo. Sì. Blu Radio Sera. Sei terra e mare. Sei mio dolore, stai con lo stupore di non arrivare mai, e poi ti inerpichi, sali di striscio che curvi ti chini, rallentami, apri tutti i cancelli, fai le onde, poi rispondi al fuoco, la tua fila di moda, apri il gas sopra i valichi, scarichi, quattro dita di cenere, venere mia, sei terra e mare, sei il mio motore, sei preoccupazione di non arrivare alla fine, poi stai con le tue finiture, ciò bella in posa, la mia rosa, tutta soda e con Cristi alla moda, ombrosa, fai la cruda, corri dritti assassina, violenta bambina, con la porta che si biforca. Non so dirti come nasce il sole, no, non so farti neanche bene l'amore, giuro, non ti sopporto più di parole, poi dai, guarda tutto come lo devi sperare, yeah. lasciami, lasciami, la mia mano ti scaverà, fino a prendere la tua idea, sciogli l'Everest, sedami, guardami, guardami, sono chi non ti mancherà, con la mano ti percorrerà, finché tanto non ritroverà l'asfalto. Sei dove c'è il sole, sei lì, ma se nevica fai più rumore, sai, potrei scaldare la corda lunare della tua passione, madame, sono i loro stagli di un mondo in pista, e tu ti inerpichi, sali, ti striscio, ti curvi, ti chini, rallentami, apri tutti i cancelli, fai le onde, poi ti suona il fuoco, dopo tira di moto, apri il gas sopra i valichi, scarichi, quattro dita di cenere, venere mia. Non so dirti come nasce il sole, no, non so farti neanche bene l'amore, giuro, non ti soffoco più di parole, poi dai, qualche trucco me lo devi svelare. Tu puoi trovarmi dove nasce il sole, dove, dove le coppie ti fanno l'amore, giuro, te la cavi con poche parole, poi qui nella strada puoi sentire l'odore, yeah. Lasciami, lasciami, la mia mano ti scalerà, per non prendere l'acqua in te, tu scegli l'Everest, sedami, adesso guardami, guardami, sono chi non ti mancherà, con la mano ti percorrerà, finché tanto non ritroverà l'asfalto. Blu Radio Veneto. Blu Radio, Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ecco qua, esigenze della diretta vogliono anche che si arrivi a sfumare ogni tanto qualche pezzo. Saremo anche contrari, però diciamo che poi abbiamo il tempo dalla nostra parte, che è sempre il consueto tiranno, non cambia mai, ha preso da Attila e molto. Ecco, allora abbiamo ascoltato quello che è un pezzo un po', diciamo, agitato. Prima sì. Si diceva che c'è una tua cultura hard rock e heavy metal, qua emerge. C'è, qua sì. Emerge, qua sì. C'è tutta. Dicevamo di citare in questo caso anche i due coristi, il cui contributo qui è stato davvero fondamentale. Sono un uomo e una donna. Il ragazzo è tra l'altro mio cugino, si chiama Fabio Casali. La ragazza è una bravissima insegnante di canto, si chiama Maria Pia Guidi. Bene. E che in questo brano ha fatto un lavoro particolarmente importante. Bene, allora Maurizio, prima si diceva che bisognava dare ascolto, diciamo, a tutto per capire. Certo. E quindi ci siamo presi un po' in ritardo, ma perché è sempre un piacere parlare con l'artista, capire qualcosa di più della musica, non solamente sentirla. Però vogliamo far ascoltare un altro pezzo dal CD prima che le 22.30 ci colgano, e dopodiché torniamo per i saluti, però Pier Matteo ci ha promesso di farci ascoltare anche un'ultima canzone dal vivo. Sì. Vediamo di farci stare tutto questo in pochi minuti? Ok, allora direi che potremmo ascoltare anche un pezzo molto importante per questo lavoro di Pier Matteo Carattoni, che si intitola Cattivamente. Ti chiamo col nome del mio sentimento, chiamando ma accorgo che è spento. Ti chiamo coi nomi vecchi giorni, ti chiamo ma tu non rispondi, ti chiamo con il nome dei sogni infantili, i miei tintinnanti monili, ti chiamo e ti parlo ma senza parole, si abbracciano e muoiono al sole. Ti mostro la lista dei miei desideri, in cui fino a ieri tu c'eri. Ti parlo e ti aspetti parole d'amore, ma da offrire ho soltanto rancore. Mi perdo dentro i giorni, scordo ogni ricordo di me, come la corda che tendo, mi protendo e disattendo. Le tue attenzioni, i bianchi pantaloni, li sottraggo al tuo sudore, non mi curo del tuo cuore, ma di quello più indefesso, dove ho appeso il volto adesso. Respirare qui non posso, tra i filati bianchi afosi tuoi. Sospiri rumorosi acquati, già ferisco con ritratti ingenerosi. Ti stordisco di parole, atte a farti dondolare. La linea tra il dolore e l'oscuro tuo candore, balla e fa l'amore al diavolo il dolore, a morte le parole, in culo ad ogni tentazione di tristezza. La regola sarà l'ebbrezza, e bruci l'amarezza, bruci la tua misera amarezza. Una bella licenza su questo mio cuore impazzito, sulla mia pazienza e la mia indipendenza, su questo mio orgoglio ferito. Immagino bene quegli occhi vogliosi, da spasmi colosi. La loro stanchezza non sarà abbastanza per quella tua bionda pietanza. Io quasi le vedo le mani gelate dei loro eleganti attentati. Toccano il dorso e a te non dispiace pentirsi o saperli saziati. E tu dirai di sì, perché è una sottile alchimia di distanza e tenerezza, sesso ed accondiscendenza, esercizio del potere di saper condizionare con dolcezza il mio dolore, di poterlo controllare e poter decidere di me, traendone quella soddisfazione che neanche l'attenzione più segreta sa sortire in te, che non mi può impedire di godere a disprezzare ogni gesto, anche banale, ogni minima questione. Mi accanisco con amore. Posso farti male, posso farti male. Posso conservare tutte le parole più distratte, astiose, confezionato. Posso conservarle come pietre preziose. Io le voglio accudire come figlie nel ventre, puoi restituire come colpo di grazia quando sazia di odio tu ti maledirai. E non sarà abbastanza, non sarà abbastanza. Blu Radio Sera. Allora, cattivamente, questo pezzo, anche qui si sentiva un po' del tuo retrogusto hard rock, no? Soprattutto verso la fine, verso la parte un po' arrabbiata. Sì, sono contento che questa sera sia uscito molto spesso fuori il discorso di Cattivamente, perché effettivamente è un brano chiave dentro l'economia dell'album, il brano che chiude la prima parte, quella che parte, che nasce dall'amore incondizionato, metafisico, fisico, eccetera eccetera, per incanalarsi in questo percorso sbagliato e arrivare al suo contrario, cioè alla cattiveria, mica tanto gratuita, cioè la cattiveria ragionata che la rende ancora più pericolosa e violenta. Certo, dove si può trovare il tuo disco, Pier Matteo? Allora, si può ordinare nei negozi di musica piuttosto che sul mio web piermatteocartoni.com o anche pmsstudio.com, che è l'etichetta discografica con cui lavoro, sia fisico che download, digital download. Qualche appuntamento live dalle nostre parti? Dalle vostre parti? Ti direi proprio di no in questo momento. Ma però vicino, tanto per capire. San Marino, 25 febbraio, c'è l'esordio del duo acustico. Ah, benissimo, sì. Quindi a San Marino, perché si trova da quelle parti, si sa, le gite si fanno spesso e volentieri, poi San Marino è una buona meta turistica, perlomeno per noi veneti. Bene, allora Maurizio, prima di salutare Pier Matteo, che naturalmente ci saluterà alla sua maniera presentandoci un ultimo pezzo e poi noi ce ne andiamo, l'appuntamento per domani sera è un po' particolare, sì. Flavio, avremo un tributo ai Beatles di una band di Padova, però una band padovana che fa parte del Bacchiglione Beat. Sì, fanno 240 anni in quattro. Esattamente, ma la realtà non conta stavolta. e parleranno anche dell'ambiente padovano dell'epoca, degli anni 60, molto interessante. Molto interessante, quindi un altro appuntamento con Rock Wave nella versione live dalle 22 alle 24, sempre qui su Blu Radio Veneto. Allora, Pier Matteo Carattoni, noi ti ringraziamo per essere stato con noi qui, per averci proposto la tua musica, e siamo stati veramente felici. Poi naturalmente tieni conto dei nostri numeri di telefono, dei nostri indirizzi, perché sappiamo che la tua attività non si fermerà con Pagine Strappate, ma continuerà, e ne siamo sicuri, visto l'energia che ci hai messo in questi pezzi e la determinatezza con cui hai spiegato le tue canzoni. Io ringrazio voi di cuore, perché avere dei momenti come questo in cui parlare liberamente, senza freni, è davvero qualcosa di raro di questi tempi. Quindi non è un ringraziamento retorico, ma è sentito. Benissimo, allora okay. Pier Matteo ha imbracciato nuovamente la chitarra, io e Maurizio ce ne andiamo, ringraziamo tutti gli ascoltatori, rimanete sempre con noi, perché dopo questo appuntamento live c'è naturalmente Rock Wave, l'onda del rock in questa serata, heavy metal, hard rock con Renato Ferro, che già ci aspetta scalpitante. Lasciamo il microfono a Pier Matteo Carattoni. Grazie Pier Matteo. Grazie a voi, buonanotte. Ciao. Stare un po' da solo in fondo non è niente male. Fare un po' di tutto, un po' di niente per campare. Adoperarsi a piacersi di più. Grazie a che non mi usavi tu. Essere da soli non è niente di speciale. Farsi 30 birre al giorno e dopo vomitare. Cibo scaduto, sporcizia e sudore. Seri dubbi sul mio valore. Rimanere da soli, siamo onesti, fa cagare. Perdere le ali, aver bisogno di sognare. Ricaricare la pila e si sa. Se non la usi, che fine fa? E questo tempo mi ammazzerà. E sempre non lo faccia tu. Perso per perso, sai, la chiamerò. Al massimo sarà un altro no. Starsene da soli, guarda, può essere anche originale. Oggi come oggi sono in pochi che lo sanno fare. Ti puoi vestire un po' come ti pare e te la puoi godere. Una donna al giorno, zero regole da rispettare. Balli chi si inventa che è il momento di dormire. Tu quel mezzo mezzo letto, vuoto non lo puoi sopportare. Ma io dormo di traverso e anche bene. E questo vento ti riprenderà. E come ti ha portato qui? Sarà per gioco che ti scorderò. Se un gioco è stato averti. Nessuno mai con cui chiacchierare. È tanto meglio chi è che c'ha più voglia di parlare. Stare un po' da soli in fondo non è niente male. Non avere niente con nessuno da spartire è adoperarsi a piacersi di più. Quella grazia che non mi usavi tu. E questo tempo mi ammazzerà. E non ci sei riuscita tu. Perso per perso, sai, ti chiamerò. Cosa vuoi che sia un altro no? Un altro no. Un altro no. Pubblico e privato. Le interviste di Paola De Simone. Sono Paola De Simone e vi aspetto tutte le notti, dal lunedì al venerdì, con Pubblico e privato, incontri con personaggi del mondo dell'arte, un'ora in cui andremo